carovana è partita nel 94 in Sicilia, promossa allora solo dall'ARCI, ancora libera non era costituita perché fu fondata nel 95. A due anni dalle stragi di Via D'Amelio e di Capaci si pensò di mettere in campo un'iniziativa che servisse a mantenere alta la tensione antimafia, a portare solidarietà a quanti erano particolarmente esposti su questo fronte molto rischioso e soprattutto a promuovere società, spazi di auto-organizzazione, lanciare progetti, far sì che il tessuto sociale siciliano fosse più fitto, perché in questo modo potesse essere più facile impedire la penetrazione, l'affermazione di culture, di pratiche mafiose e anche clientelare, perché quelle cose chiaramente vanno molto insieme. Quindi il fatto che si è partiti nel 94 soltanto in Sicilia e che oggi siamo a una carovana che toccherà tutte le regioni d'Italia e 130 città, mi pare che possa essere già un elemento, come dire, che ci dice che un risultato, ci dà un risultato positivo di questa iniziativa, nel senso che sul piano della sensibilizzazione, sul piano del coinvolgimento, sul piano della promozione anche del potenziamento delle associazioni che la promuovono, che sono ARCI, Libera e Avviso Pubblico, ecco, da questo punto di vista possiamo essere discretamente soddisfatti. E l'edizione di quest'anno presenta delle novità, pertanto delle finestre internazionali. Nuova Gorizia, tre tappe nella Francia, a Nizza, Toulon e Bastia in Corsica, su richiesta di associazione francese, e questo ci ha fatto molto molto piacere, significa che c'è già l'esigenza di andare oltre i confini nazionali e probabilmente dal prossimo anno incominceremo a mettere in cantiere una carovana a dimensione europea. Le istituzioni, il rapporto con le istituzioni, io penso che ultimamente non ci sia una strategia complessiva credibile da parte delle istituzioni nei confronti del fenomeno mafioso, specialmente al sud. Il sistema mafia, politica, finanza è un sistema ancora forte, e se non si arriva alla elaborazione e gestione di un progetto unico che veda impegnati da un lato le istituzioni e quindi le forze dell'ordine e dall'altro la società civile, l'associazionismo, il volontariato, gli enti locali, difficilmente questo impegno, questa battaglia potrà risultare vittoriosa e rimaniamo sempre nelle condizioni di resistenza. Occorre quindi una progettualità complessiva e un intervento organico tra tutti i soggetti e gli enti che almeno ufficialmente sono o dovrebbero essere impegnati contro le mafie, perché ormai si tratta di mafie e non solo di mafia. Le mafie si sono moltiplicate, hanno ampliato i loro bacini di intervento, basta soltanto pensare al commercio d'armi, al commercio di esseri umani, tutta la questione della tratta, tutta la questione del doping. Stiamo pubblicando come Libera un dossier con cui si documenta che almeno 500.000 italiani che non sono campioni, che non fanno attività sportiva agonistica di livello, fanno uso di sostanze dopanti, e dietro ci sono sempre le cosche mafiose. I media sottovalutano, certo i media parliamo in generale, non tutti ovviamente, però direi che la stragrande maggioranza dei media sottovalutano questo fenomeno, non lo considerano forse, come dire, attuale sul piano del mercato e della possibilità di vendita. E questo io penso che è molto grave. Comunque sta anche a noi, associazioni che lavoriamo in questo ambito, forse fare un lavoro di maggiore sensibilizzazione, però l'impegno dei media è sicuramente determinante. Vorrei aggiungere solo questo. Le mafie non sono un fenomeno a sé, non sono un fenomeno a sé, non vanno considerate come un bubbone da estirpare, punto e basta. Ormai sono un elemento di questo sistema, forse è uno dei modi come la cosiddetta modernità si manifesta o addirittura si impone, specie in alcune società. E allora da questo punto di vista forse i media dovrebbero rivedere un po', ecco, come dire, il loro rapporto con questi fenomeni, che non mi sembrano assolutamente trascurabili.